arrivo e faccio rime in ogni posto. Se impazzisce questo caldo d'agosto, porco Dio se c'ho le palle piene. Suicidio di massa organizzato per farvi del bene. Siamo nel 2010 ed anche Freddy Krueger non esce più dalla TV ma da un computer, che ce fa saltare dal corpo la testa. Un corpo senza testa è quello che ci resta. E la mia testa fa, e la tua testa fa, la loro testa fa, e le che yes. E le parole ce ne sono proprio tante, ecco perché rimo ancora più pesante. E le follie ce ne sono non sai quante, in un clima sempre più agghiacciante. Ghiacciato voglio lo spumante da spaccare in testa alle tante teste di cazzo che ce stanno, a tutte le troie che me tradiranno. Notte l'occasione, l'orario occasionale per fare un delitto passionale. Vedo lei con un altro, la mia testa non capisce, inseguo affari spenti per vede come finisce. In bocca nel pineto e sono sempre dietro, poi la fermata e se inizia a pannar vetro. Ora la mia testa capisce però scoppia, decido di far fuori la nuova coppia. Le merde ci sono nate fino in campagna, ma non sanno che dietro c'ho la zaccagna. Mi avvicino stilo militare e le gomme inizio a scorciare. Quindi credevate de famme fesso, sarcastico mi chiedo, mandonna da adesso. Ripartenza fiasco, il tipo scende come un fesso. Sta troia m'ha tradito, popo con un cesso. E la mia testa fa, e la tua testa fa, la loro testa fa, e le che yes. E la mia testa fa, e la tua testa fa, la loro testa fa, e le che yes. Per fa sta cosa ci vanno troppe palle, oppure che troppo te girino le palle. Rodimento grosso, fin qui mi son mosso, inizio a sfogare la rabbia più non posso. Tra le urla sferro coltellate, mi ritrovo con le mani insanguinate. Dopo la merdata ancora che implorate, adesso zitti muti voglio che crepate. Thank you.